Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Nei giorni scorsi è stato lanciato l'allarme. I giovani giungono all'università sempre più ignoranti, al punto che molte facoltà stanno addirittura organizzando corsi di italiano non per studenti stranieri, ma proprio per studenti italiani, i quali avrebbero dovuto già avere abbastanza dimestichezza con la propria lingua, non fosse altro perché provengono da 13 anni di, si fa per dire, studi. Mi domando, ma che cosa hanno fatto durante le ore di lezione, in tutti quei 13 anni, tutti quegli insegnanti che affollano le scuole elementari con le tanto amate triple maestre, medie e superiori? Evidentemente poco o nulla alla luce dei risultati. Salvo poi lamentarsi quando vengono apostrofati come fannulloni. Alessandro. Quando da Svizzera, Austria, Francia o Slovenia si entra in Italia in auto, la prima cosa che si incontra è un bel cartello che informa i guidatori dei limiti di velocità massimi consentiti nel nostro paese. La stessa cosa accade nei porti con traffico internazionale e perfino in alcuni aeroporti dove uno straniero potrebbe arrivare e affittare un'auto. Giusto, è corretto informare. Chi arriva dall'estero deve sapere e adeguarsi. Ma allora mi sono chiesto, quando si entra in una qualsiasi città italiana, come si può sapere quali sono le disposizioni emanate dal sindaco del borgo, per le quali una trasgressione può costare una cifra da capogiro? Mi riferisco all'ultima disposizione del sindaco di Capoliveri, Isola d'Elba, che ha vietato il possesso di qualsiasi forma di tabacco ai minori di 16 anni, pena una multa che può arrivare a 500 euro. Ma un forestiero, che si reca in vacanza in questa località, come può saperlo? E la stessa cosa vale per decine di altri comuni che, con le motivazioni più articolate, negli ultimi mesi hanno vietato di tutto, dal fare castelli di sabbia in spiaggia al divieto di sedersi sui gradini di un monumento o di tirare fuori una mela da un sacchetto e sgranocchiarla per strada. Città che vai, capestro che trovi. Se non lo sai, rischi di rimanerci impigliato e pesantemente salassato. Mi domando se tutto ciò sia legale. Capisco che alcune motivazioni, in molti casi, possano essere più che buone, ma il risultato finale è che in alcuni casi si arriva a situazioni paradossali e profondamente ingiuste. Mi aspetto a breve dei bei cartelli all'ingresso di ogni città e all'uscita di ogni stazione ferroviaria, con le indicazioni di tutto ciò che non è permesso e le relative sanzioni. Questo vorrebbe il buon senso e quel minimo di rispetto per ogni cittadino che non è tenuto a sapere cosa è passato nella testa del sindaco o della giunta della città che si appresta a visitare. Sembra paradossale, ma se la cosa dovesse prendere ulteriormente piede, saremmo costretti a dotarci di un sistema informativo sui divieti in essere in ogni città. Tutto questo in barba a chi ha dato il permesso e lo ha fatto, a suo dire, nel nome della libertà. Quale libertà? Sarebbe a questo punto la domanda che sorge spontanea, ma alla quale so che non ci sarà nessuna risposta. Andrea. Mi è capitato recentemente di recarmi a Parigi. Non aver mai visitato la Ville Lumière era una lacuna che intendevo colmare, e la bellezza dei monumenti della capitale di Francia è indiscutibilmente un patrimonio dell'umanità. Il ricordo che mi resterà di quel viaggio, al di là della bellezza della capitale, è l'idea di uno Stato che funziona e di una popolazione che disprezza, nemmeno troppo velatamente, gli italiani. Ho cercato di comprenderne le ragioni. La Seconda Guerra Mondiale è ormai troppo lontana nel tempo e tutti o quasi gli italiani e i francesi di oggi la conoscono solo grazie ai libri. Ritengo più probabile che il disprezzo verso di noi sia da ricollegare al confronto improponibile tra il loro funzionale apparato statale e il nostro. Mi sono spostato in metropolitana e ho potuto notare, innanzitutto, che sulle pareti di tutte, ma proprio tutte le stazioni, non c'è un graffito che sia uno e le piastrelle splendono come nel giorno dell'inaugurazione. Inoltre, una persona che avesse intenzione di scroccare il viaggio dovrebbe essere un acrobata o uno scassinatore, perché accedere alle linee senza biglietto, anche in assenza dei poliziotti armati, è impossibile. Mi viene difficile pensare che i graffitari o gli emarginati delle banlieue francesi, quelli che Sarkozy definì feccia ai tempi in cui era ministro dell'interno, siano più educati dei pari grado romani o milanesi. È più probabile che se qualcuno pensasse di dipingere a proprio piacimento stazioni e treni della metro parigina, passerebbe giorni e notti a ripulirla a partire dal momento in cui viene individuato. Quanto al biglietto, è da ritenere che nessuno reputi conveniente affrontare le conseguenze di un accesso senza diritto. Non è esattamente la stessa sensazione che si prova da noi, dove pagando il biglietto della metro viene da chiedersi se si è onesti oppure un'altra cosa. Ho visto una ventina di magrebini fuggire a gambe levate all'arrivo di una volante con due agenti e ho inevitabilmente ripensato a ragazzotti ventenni che, dalle nostre parti, irridono le forze dell'ordine durante un controllo. Non penso si debba ricorrere a indulti o scudi fiscali per non apprezzare il nostro povero paese. È sufficiente vivere la quotidianità. Ho concluso che il disprezzo che i francesi, e non solo, provano nei nostri confronti, ce lo siamo ampiamente guadagnato. E di questo ci si può rendere conto soltanto viaggiando all'estero e confrontando le realtà. Né vale il discorso di votare destra o sinistra. Ho conosciuto una persona che per tutta la vita ha votato destra e, pur di togliersi di torno il presidente del Consiglio alla penultima tornata elettorale, votò dall'altra parte, ritrovandosi in Parlamento il leader dei No Global napoletani che per un paio di anni del suo irrinunciabile contributo alla crescita del paese percepisce già una pensione 5 volte superiore a quella che forse io vedrò esattamente tra 20 anni. Ed è pensando a questo che forse i francesi mi stanno meno antipatici. Gino. Egregio direttore, qualche settimana fa costeggiavo con l'auto a passo d'uomo un prato lungo una via della periferia milanese per raggiungere il semaforo. Il prato era ed è, immagino ancora, colmo di immondizie. Pacchetti di sigarette, bottigliette di plastica, cartacce, lattine e via andare. Tutta roba lanciata fuori dai finestrini delle auto. Ormai la cialtroneria è imperversa a 360 gradi. Uomini anziani e giovani che girano per le strade della città in canottiera oppure a torso nudo col calzoni corti e ciabatte da mare. Donne che si esibiscono con pantaloni a vita bassa dai quali debordano ridicoli lardelli. I tatuaggi poi si sprecano, insieme a palline d'acciaio e anellini infilati dappertutto. Le auguro, direttore, di non trovarsi mai su un mezzo pubblico quando viene invaso da un'orda di cosiddetti studenti all'uscita di una qualche scuola. Sono capaci di travolgere persone anziane e malferme sulle gambe pur di accaparrarsi un posto a sedere. Sorvolo poi, per decenza, su cosa esce dalle loro bocche e su come sono vestiti. Parlare di fiera dell'idiozia, della volgarità e della banalità mi sembra la cosa giusta. Ma da dove sono sortiti questi usi e costumi? Chi ha fatto finta di educare questa gente? Cosa fanno i media per far rinascere il buon gusto e un minimo d'educazione? Le nostre città sono sporche, imbrattate con le vernici in bomboletta, lordate in molti luoghi di urina e deiezioni di cani, vandalizzate in tutti gli arredi urbani. L'ambiente è adatto per tanto popolo, mi pare. Come si dice, direttore? Ad maiora. Carlo. Un paio d'anni fa, durante le lezioni di italiano, la maestra di mia figlia, allora in terza elementare, ha affrontato il tema del dialetto. Il dialetto è stato affrontato in modo semplice, attraverso la lettura di alcune poesie, le interviste ai nonni, la ricerca di alcuni vocaboli abitualmente usati nel nostro dialetto e altre cose simili. L'Italia per me esiste almeno dal 1866, anno dell'annessione del Veneto, ed è importante agire più che mai per consolidare e rendere più coeso il paese. Ci sono troppe disparità. Non credo che al Veneto avrebbe fatto piacere essere considerato il sud dell'Austria. Tuttavia, alcune aree d'Italia dovrebbero avanzare e affrancarsi da culture e mentalità arretrate, clientelari e assistenziali. Ci vuole rispetto reciproco nell'ambito di diversità territoriali e culturali, uniti sotto un unico vero Stato. Luca. Sono un 41enne, milanese da varie generazioni. Il dialetto della mia città, purtroppo, lo capisco, ma non lo so parlare. Si parlava correntemente a casa dei miei nonni e nei cortili, quando mio padre era bambino. Ma per me non è mai esistito. Lo avevano estirpato prima. Io parlo italiano, con le mie figlie. La più grande delle due lo parlava meglio prima di andare a scuola, quando lo sentiva solo in casa. La sua insegnante siciliana ha 2 lauree, ma non conosce la differenza tra apostrofo e accento, e tantomeno il congiuntivo. Figuriamoci un dialetto che, mio malgrado, non so più nemmeno io. Sì, il tricolore l'abbiamo inventato noi padani. I Mille di Garibaldi erano bergamaschi, ma se nessuno discute della romanità di Totti o della napoletanità degli Abbagnale, il tema della venezianità o italianità di Federica Pellegrini innesca esplosivi dibattiti in un Parlamento in cui, prima di Bossi, parole come patria o bandiera erano patrimonio solo dei post-fascisti. Siamo sinceri, l'inno di Mameli è solo un'orribile marcetta militare, ma grazie a Bossi e alla Lega perderà definitivamente il suo status di inno provvisorio e diventerà finalmente il nostro inno. Così non dovremo impararne un altro per le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, uniche ricorrenze in cui ricordiamo di avere un inno nazionale. Roberto, provincia di Milano. L'Italia, nel ventennio fascista, ha continuato la politica colonialista che era stata iniziata da Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Spagna e Portogallo, e si è beccata le sanzioni della Società delle Nazioni, l'ONU di allora. Come cambiano le cose? Oggi, invece, chi attua l'embargo è considerato un criminale, vedi Sudafrica, Iraq, Libia. Mi risulta anche che l'Italia abbia saccheggiato le ricchezze artistiche e archeologiche molto meno dei colleghi europei. Basta confrontare le collezioni dei vari musei nazionali. Mi piacerebbe conoscere la lista delle restituzioni effettuate dai vari paesi europei. Una delle ultime è l'obelisco di Aksum, reso nel 2005 dall'Italia all'Etiopia. Dobbiamo avere ancora grossi sensi di colpa per quanto successo più di 60 anni fa? La nostra dipendenza di materie prime, forniture energetiche, scambi commerciali, ci impedisce di fatto di alzare la voce con i vari dittatori più o meno espliciti. Dobbiamo chiudere un occhio, o entrambi, su quanto succede in Cecenia e Russia, in certi paesi del Golfo, in Libia, Eritrea, Cina, in caso di attentati, persecuzioni, negazione dei diritti civili, tragedie in mare. Dobbiamo voltarci dall'altra parte e nasconderci dietro l'Unione Europea e l'ONU. Non giriamoci attorno e smettiamola di fare le anime belle. Fintanto che abbiamo bisogno delle risorse dei dittatori, dobbiamo tenere una posizione defilata e la schiena a 90 gradi. È la ragion di Stato. Non è solo colpa dei governi, ma anche nostra. Se vogliamo mantenere alto il nostro stile di vita consumistico, dobbiamo pagare questi costi economici, politici e morali. Carlo, Vicenza. Ho letto di quel turista italiano arrestato in Brasile perché giocando con la sua bambina le dava anche dei baci sulle labbra. Io ho un figlio di 7 anni e giocando anch'io lo bacio sulle labbra. È mio figlio. Quello che è successo, a parer mio, spiega tante cose. Spiega come siano state portate all'eccesso le paure, le diffidenze, la sfiducia e l'ambiguità della gente. Spiega che abbiamo timore della nostra ombra e che viviamo in un mondo che non ci dà sicurezza. Questo è molto grave, perché un uomo che ha delle paure è un uomo controllabile e debole. Rudy. Caro direttore, la ripresa autunnale è stata caratterizzata dalle polemiche sulla libertà di stampa, dagli attacchi del Presidente del Consiglio ai giornalisti, dalla vicenda che ha avuto per protagonisti il direttore del giornale e quello di Avvenire, con richiami inascoltati, sia da destra che da sinistra, ad abbassare i toni. Ma perché si presta più attenzione ai fatti personali che non ai veri problemi del Paese? Stefano. Caro Stefano, innanzitutto mi consenta, in questo primo appuntamento con gli ascoltatori dopo la pausa estiva, di esprimere la mia più sincera solidarietà umana e professionale a Dino Boffo. Il direttore di Avvenire è stato costretto alle dimissioni travolto da un'ondata di veleni che ha rappresentato la più forte e amara dimostrazione di un giornalismo basato sulle polemiche individuali, sulla ricerca dei vizi privati, sul trasformare le persone in strumento di lotta politica. Un giornalismo, come ha giustamente annotato Stefano Folli sul Sole 24 Ore, che sarebbe inconcepibile in un paese di forte democrazia. Purtroppo, tra i veri problemi di questo paese c'è anche questo. Alcuni grandi giornali che si sono trasformati in strumenti di lotta politica, una lotta politica in cui per di più si è inaridito il dibattito delle idee e si è dato spazio agli attacchi personali. Come uscirne? forse ammettendo che non è possibile continuare a dividersi tra guelfi e ghibellini, tra destra e sinistra, tra laici e cattolici. E allora è utile cercare una maggiore unità sulle cose da fare, senza pensare immediatamente alle contrapposizioni. In pratica, guardare avanti invece di guardarsi alle spalle. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.